Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sa poi di cosa serve il tiro del Maio duo, questa è big situation. Parte Balotelli, dietro con i pugni, palla sotto porta a rete, il gol del Milan, sorpresa vincente di Philippe Mexès. La persona che mi provocava di più in campo sinceramente era l'arbitro, e non capisco perché gli arbitri in Italia, non tutti, perché molti ho visto che hanno cominciato ad avere più dialogo con i giocatori. L'arbitro di oggi non aveva dialogo, tu non puoi parlare. Io sono stato ammonito per avergli detto che l'aveva preso con la mano, secondo me, e lui mi ha ammonito, mi fa: tu parli troppo. Io ho detto: vabbè, parlerò troppo, però un dialogo si può avere. Non ho gesticolato, non ho detto parolacce, quindi non capisco perché un arbitro non deve avere dialogo con un giocatore. Mi sembra un po' stupido, però vabbè, non l'arbitro, mi sembra un po' stupido la situazione. Balotelli, palla morbida, rete, Balotelli, gran gol, il raddoppio del Milan, 12° gol in campionato per Balotelli. Six figures on Texas, that's the full stop to the gossip. Can't wait to bring another beast down. So I'm cold, I can make hell freeze out. I can make songs, I can really freestyle. Stress, go check my views out. We mean no malice, we need a challenge. The media say we are savage, and we are callous. When we go at it, leave it damaged. Believe in magic, they hope we burn. The thought is tragic, the thought is tragic. Why always me? Bene, adesso parliamo della Juventus, del Napoli che ha vinto 4-1, degli arbitri che hanno vissuto un'altra serata storta e di tutto quello che volete. 800240024, Franco Bettini, autore di questo programma, Roberto Scalzetti in regia, Pierluigi Pardo. Ciao. Ciao, Pier. Ciao, come va? Benissimo, tu? Bene, molto bene. Sì. Detto grandi risultati, per Tiki-Taka Reload. Sì, ieri molto bene, ieri più del 15%, quindi molto felice. Domani alla Bocconi, dove ci troveremo per il programma. Domani faremo l'85% degli studenti della Bocconi, dei fischi, sì. Percentuali bulgare, eh? Saluto Marco Ansaldo, prestigiosa penna della Stampa, che mi mancava molto. Ciao Marco. Ciao, io non vado alla Bocconi. Noi sì, domani. Manco, vuoi venire? Manco alla scuola elementare. No, domani siamo lì. Se vuoi venire a trovarci, facciamo programma da lì, io e Pardo. Non so che cosa c'entriamo noi, ma comunque. Ma ripassare un po' di scienza delle finanze. Cosa tutti succede? Docenti, tutti docenti. Sì, sì, sì. No, no, ma noi parliamo di sport, facciamo programma da lì. Poi, infatti, non ci sarà nessuno. Cioè, come non ci sarà nessuno? Ma che gliene frega loro? Tutto esaurito. Sarà il Maracanà domani, vedrai. Sospenderanno, ci sarà il crollo del PIL in quell'ora. Anche perché viene Balotelli. No, aspetta, no, non è vero. Allora, voglio parlare della Juventus. Bravo. Adesso l'unico avversario della Juventus, caro Marco Ansaldo, è la noia. Come Tyson, Federer, Schumacher, Valentino Rossi, Chicago Bulls e Michael Jordan, Lance Armstrong. C'è l'Europa League apposta. Sì, c'è l'Europa League apposta. Armstrong che era un po' finto, e Merckx invece era vero, come tutti i grandi cannibali nel loro periodo migliore, tutto il resto è noia. Si cercano avversari. Ma io credo che Conte faccia di tutto per non cercarli. Certo, il rischio è che ci sia noi per questi mesi, cioè. Ha ragione Pardo quando dice l'alternativa è l'Europa League, sì. Quindi è lì che la Juve adesso deve concentrarsi. Detto questo, anche la partita di ieri ha dimostrato che è una Juve che vince, che fa molti risultati, ma è una Juve che soffre ancora molto. Cioè, se uno dovesse valutare la Juve per come sta vincendo le ultime partite, questo divario gigantesco che c'è in classifica non si spiega. C'è che ha una continuità straordinaria. Beh, ma sai, come tutte le grandi squadre, cioè quando non sono al top della condizione hanno comunque il go-to guy che risolve. È abbastanza che dura questa storia, almeno un mese e mezzo. Quindi insomma, le grandi squadre, io non credo che la Juve sia una grande squadra se guardiamo oggi nel mondo quali sono le grandi squadre. Cioè, c'è ancora una bella differenza e credo che Conte lo sappia perfettamente. Ieri Condò ha detto per che la Juventus l'Italia è la grande squadra. Ma per l'Europa ieri Condò ha ribadito che alla Juventus mancherebbe il giocatore mortale. No. Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Tevez, Messi, insomma il grandissimo fuoriclasse. No, la Juve mancano altre cose, non è solo il giocatore. La Juve manca ad esempio una panchina di grande qualità. La Juve ha un ricambio vero per ogni settore, punto e basta. Cioè ha Cáceres per la difesa, perché Obon ha fatto vedere che è un buon giocatore, ma non è da altissimi livelli almeno adesso. A Marchigio a centrocampo e ha probabilmente Osvaldo davanti, punto. Gli altri sono i Parolini, Peluso, cioè giocatori, Isla che abbiamo visto che non funziona. Cioè, quindi manca un po' quello e poi manca anche una certa qualità, ad esempio secondo me qualcosa di più importante di Lichtsteiner nel Barcellona, nel Bayern si trova, insomma, ecco. Ci sono delle differenze, inutile dirlo, esistono. Poi in Italia, siccome nel Regno dei Ciechi l'orbo è re, è chiaro che diventa così. Ma io immagino questa Juventus, guarda, l'ho detto prima a una vostra radio non concorrente, io vedo la Juve dal 1961, avevo 5 anni, credo che di aver visto nella mia vita 4 Juventus più forti come qualità più forte di questa. Poi questa è una di quelle che ha giocato meglio, perché Conte è veramente stato il valore aggiunto. Sì, dipende anche dal livello della concorrenza. Nel 61 Parda aveva già 15 anni, se la ricorda bene anche lui. Pier, lo sei? Scusate, ma ho incontrato Illosio, che è una figura mitica della vita milanese. Illosio, puoi non conoscerlo, Formentera adesso, ma che ha urlato in mezzo alla strada con un pazzo. No, io penso, sono d'accordissimo con l'analisi, cioè penso che ci sia il discorso delle alternative, un po' è anche, cioè secondo me Condò non sbaglia quando dice che manca il giocatore di grandissimo livello europeo, perché Tevez, che per me è un giocatore pazzesco, e ieri sera ho twittato che comunque mi sembra assurdo che non vada al mondiale, rischi di non andare al mondiale, anche se l'Argentina ha grandi alternative, però è un giocatore che in Europa non segna da 3 anni e mezzo. Questo è un dato di fatto, insomma. In Italia è un giocatore fenomenale, che sì, però è anche abbastanza curioso, perché forse riporterà a vincere il fantacalcio dopo anni, tra l'altro, quindi da questo punto di vista sì, vediamo, insomma. Però è chiaro che stiamo parlando di un giocatore che poi nella sua dimensione internazionale purtroppo non ha reso come altri. Quindi io credo che la Juve sia dietro, non credo onestamente che la Juve per quella che è la sua cifra tecnica meritasse di uscire, o comunque non sia fra le 16 assolutamente, secondo me fra le 16 forse anche fra le 8 della Champions League, però siccome poi il campo è quello che conta e la Juve la Champions League se l'è giocata malissimo, è giusto che sia uscita. Questo, adesso l'Europa League secondo me diventa veramente una grande occasione. Sì, infatti non capisco questa, ma l'abbiamo già detto, questa ostinata caccia al record, quando veramente l'obiettivo principale dovrebbe essere quello, perché questo è già centrato, no? Quello dello scudetto. Traffico, poi torniamo. Marco Ansaldo per Luigi Pardo, state lì. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Tutti convocati. C'è la gamba di Bonucci che è nettamente davanti a quella di Parolo, e esatto. Parolo colpisce dietro il tendine di Bonucci, ecco, quindi è quello che ho fatto vedere io. Già questo sia abbastanza eloquente, no? per chiarire qualsiasi situazione. Fischia, urla e se ne va. Io capisco di calcio e proprio per questo mi appello al quinto emendamento e non... Bonucci. invece allarga la gamba e quindi evita la possibilità di intervenire a Parolo, non è che è in anticipo se va sulla palla e l'altro gli va addosso, ma non è che gli va addosso. Parolo sta solo continuando la sua corsa, lui mette la gamba facendogli ostruzione, quindi poi dopo l'interpretazione che si vuol dare è ognuno è libero di farlo come vuole, ma non è così. Secondo la nutrita opposizione, Mario da Milano conta gli episodi 28esimo episodio dubbi a favore. Secondo l'opposizione, nutritissima, questa è la grande differenza tra il formato italiano e quello europeo della Juventus. Pardo? Che devo dire? Non lo so. Io su quell'episodio lì, allora, Cesari avrebbe dato rigore, Paparesta no. Questo è stato per dire quanto sì. si possa essere discutibile. Secondo me Bonucci fa fallo, perché non è vero che è in vantaggio, secondo me allarga. Ho un dubbio su Schelotto, nel senso che Schelotto su Marchisio interviene in un modo che secondo me è al limite e quindi poteva essere interrotto il gioco, a quel punto era calcio di punizione per la Juve. In generale, che te devo dire? Non lo so, io non vedo un campionato clamorosamente condizionato agli arbitri, cioè per me la Juve è la più forte e lo vince. Sicuramente... La caratteristica delle grandi squadre è quella di essere molto rispettate, magari un po' di sudanza a certe partite con le squadre piccole c'è, e questo magari poi alla fine diventa quasi un boomerang, nel senso che poi Perché mediaticamente sai, credo onestamente che la Juve avesse bisogno, cioè se anche pareggiava ieri sera, se anche dava quel rigore pareggiava, non è che il campionato cambiava, no? E secondo me per quanti episodi, se non sono 28, ci possano essere stati in questo campionato, il verdetto è giusto. Cioè, secondo me, per quello che ho visto fino ad oggi, la Juve era migliore, poi c'è la Roma e poi c'è il Napoli. Sì, a parte che secondo me è praticamente sempre così. Marco Ansaldo. Sì, lo penso anch'io. Io fossi stato l'arbitro avrei dato rigore, però credo che ormai questa storia qui deve conteggiare, anche perché... Io lo vedo non solo nei tifosi ma addirittura negli allenatori, conteggiano i punti diciamo così tra virgolette persi, sì, ma non considerano mai i punti tra virgolette guadagnati. Io ho sentito un allenatore dire noi abbiamo 11 punti in meno, dico sì, però ne avete avute anche 6 in più, perché ricordavo una partita. Chi era l'allenatore, Marco, posso chiederti? Lasciamo perdere, se non puoi capire. Ma aveva 6 punti in più perché una partita l'ha vinta con dei rigori che non esiste, e quelli invece vengono cassati, cioè non si considerano più, valgono solo le allora questo è un gioco. Chiaramente la Juve forse sicuramente ha avuto qualche episodio dubbio fischiato a favore più delle altre, però insomma se uno guarda il calcio vede che poi alla fine anche certe partite in cui la Juve ha avuto un vantaggio di un rigore dato oppure non subito, però questa è la guerra santa che va avanti da mille anni. La sensazione, ma sì, ma infatti bisognerebbe forse noi per primi cominciare a darci un taglio e sbarciarcene la sciarpa, insomma, questi discorsi qua. Un conto, sai, quando tu arrivi, ecco, ricordo purtroppo il campionato con la Roma, il gol di Turone, ecco lì ci fu una differenza che poteva pesare davvero, oppure il famoso rigore su Ronaldo, lì ci fu una differenza perché poi alla fine io vinsi 4 punti, qui insomma quando tu hai 11 punti di vantaggio sulla seconda, ma che cosa vuoi dire? Come ti dico, la guerra santa che va avanti da molto tempo, Corriere dello Sport, arbitri notte fonda, ma il Corriere dello Sport ci sta, cioè, io ho lavorato al Corriere dello Sport di Giorgio Frosati, quindi so benissimo, ed è un grande giornale, e so benissimo qual è la cosa, cioè, poi ognuno, se ti leggi tutto Sport invece va tutto bene, sì. Ma ti dico, la guerra santa anche mediatica che va avanti da mille anni e che non mai si fermerà. Ma di fatto, non è che a Madrid e a Barcellona siamo presenti. Esatto. Bravo, perché a noi sembra sempre, anche gli allenatori che non è però all'estero, poi vanno all'estero e cominciano a vedere che li massacrano, come ad esempio massacrarono Mancini in Inghilterra, lo stesso all'inizio di Ancelotti a Parigi, sì, e anche a Madrid, cioè non è che poi la cosa sia così rose e fiori, però gli allenatori qua hanno la sensazione che la si viva nel ma sai, le manie di persecuzione sono uno dei nostri tratti caratteristici cromosomici, no? Le manie di persecuzione, la tendenza a piangersi addosso, come abbiamo detto molte volte negli ultimi giorni, a proposito del livello del nostro campionato. Senti, la devo parlarne io, Pierluigi, perché se quella punizione avesse tirato Pirlo, oggi sarebbero già tutti in ginocchio. Sì, ma infatti la differenza, io guarda, quello che non ha senso, che non capisco, è quando qualcuno mette il fattore C, diciamo il fattore culo, su qualcosa che invece è legato alla singola prestazione dei giocatori. Cioè, per me la vittoria della Juve col Genoa, tanto per esempio, è quanto di più lontano dal culo, scusate, possa esistere, nel senso che nel momento nel quale Buffon para un rigore e Pirlo mette una punizione, quello non è un elemento esogeno, non è un'alluvione o una mattina sospesa, quelli sono dei gesti individuali, sì, uno e due gesti individuali, certo, ma ci sta. E delle volte i gesti individuali in uno sport di episodi come il calcio riescono a... Ma sembra una diminuzio, ma scusami, questa sembra una diminuzio, cioè il gesto individuale, ma abbiamo giocato male, però c'è stato quello che l'ha buttata dentro nel caso di Tevez o di Pirlo nelle partite precedenti. Ma penso che il calcio sia anche questo, però io mi riferivo, e giro la domanda a Marco Ansaldo, spostandomi un attimo prima di andare a Messina, a Bologna, dagli ascoltatori, mi riferivo a quelle due punizioni di Firenze, se le avessi, perché sono molti quelli che vogliono intervenire sull'argomento, se quelle due punizioni di ieri sera a Firenze le avesse tirate Pirlo, molti sarebbero già in ginocchio, mentre adesso si dice, ah beh, però Neto non l'ha respinta male, ah però Matri si è mosso dalla barriera, quasi quasi sembra culo. Io direi che la notizia di ieri, una delle notizie di ieri, sia la vittoria di un Milan convincente e la vittoria di un Milan convincente decretata dal numero 45. Un'analisi corretta, cosa si devo dire? È vero, cioè, tra l'altro una delle punizioni di Balotelli mi è sembrata la fotocopia di quella di Pirlo, quindi sì. non è che ci sia stata tanta differenza. Sì, è stato un Milan convincente. Il problema è che il Milan e Balotelli soprattutto mi sembrano un po' come le frecce delle auto, sai, quando le accendi, un po' si accendono e un po' si spengono a intermittenza, e questo in un campionato non funziona in generale. Sì. Cioè, bisogna che le luci restino belle fisse. L'unica diagnosi possibile con Balotelli è non fare diagnosi, cioè, ma io devo dire, l'ho detto anche qualche settimana fa, quando nei momenti bui di Balotelli, cioè ci sarà sempre l'eccezione. Balotelli fa un gol pazzesco contro il Bologna dopo una partita anonima in un momento di grande crisi e confusione, e questo è, quindi voglio dire che questo ragazzo abbia dei colpi pazzeschi, e secondo me dal punto di vista tecnico il colpo migliore che ha è il tiro, cioè la vera eccellenza di Balotelli è il tiro. Sul tiro per me è su livelli da primi tre al mondo, senza discussioni. Su altre cose può crescere, può migliorare, ce lo raccontava anche Sacchi nel rapporto con i compagni, i movimenti, eccetera, eccetera. Però ragazzi, i colpi ce l'ho sempre, cioè non è che ha una velocità nello stupirci continua, perché ha dei colpi straordinari. Quello che però in questa stagione sinceramente è mancata è la continuità, è il diventare un uomo squadra, ammesso che lo potrà mai essere. E questa era la sfida che il Milan un anno fa aveva messo sul tabellone, sul cartello, e questa sfida secondo me è una sfida purtroppo persa. Poi Balotelli è uno che secondo me, lo dicevo ieri pomeriggio prima della partita di Firenze, è imprescindibile in nazionale. Come fai a non portarlo? Un giocatore che ti può cambiare qualsiasi partita, come fai a non portarlo in una situazione come questa? Vale al quadrato, al cubo, il discorso che facciamo per Cassano. Certo. Perché è un giocatore che può risolvere le partite anche da solo, quindi, però voglio dire, a me non è che sorprende ieri sera, io ormai non mi sorprende più niente di Balotelli, così come non mi sorprenderebbe vederlo giocare magari male la prossima partita, perché è un continuo alto e basso, ed è una continua appunto, è un continuo sorprenderci, quasi veramente, se volessi tutti i giorni nel bene o nel male darci da scrivere e da parlare. Sì, comunque siamo a 12 gol giocando a intermittenza. Secondo me il grande limite è lo scarso numero delle partite giocate, perché 12 gol, te ne ha 18 capocannoniere, non sono nemmeno pochissimi. È vero anche, e chiudo con Marco Ansaldo, che ha seguito la Fiorentina nella lunga sfida con la Juventus, che l'avversario ieri sera mi è sembrato un po' esaurito dalla fatica, dalle troppe assenze. Forse non era un test così provante. Diventa a questo punto difficile, ma anche interessante capire che sarà del futuro anche immediato del Milan, perché il Milan, come Balotelli, è una squadra che mi sembra vada un po' su e giù. Che esatto, è quello che ti ho detto, cioè come i fanali dell'auto, vanno un po'. Ma il Milan intero? Sì, certo. Il Milan non ha una sua stabilità. Ha fatto una buona. Ti faccio un caso: all'andata con l'Atletico Madrid fece un primo tempo straordinario. Anche con la Juventus, secondo me. Sì, ma ti faccio Real Madrid per questa cosa. Primo tempo straordinario, bellissimo, la dimostrazione che poteva giocare alla pari con l'Atletico Madrid, poi preso un gol per tutto, ma comunque poteva, va a Madrid e ne becca 4, allora giocando il secondo tempo in una maniera inesistente, cioè era un'altra squadra, e questa è la differenza, cioè contro lo stesso avversario due atteggiamenti proprio agli antipodi, e allora non sai mai che Milan aspettarti. Questo significa che è una squadra che viaggia molto su la prestazione del singolo, ma non ha ancora trovato una sua forza di squadra. La Juve in questo è molto differente, cioè la Juve continua a vincere perché la Juve è squadra. Certo. Cioè poi c'è la volta, c'è stato il periodo che Tevez non la beccava mai e segnava sempre gli Llorente. Certo. Poi c'è stato il periodo e si è assegnato Pirlo. Poi c'è stato il periodo e adesso c'è Tevez. E guarda che la Juve non è una squadra di fenomeni, la Juve ha tre fuori classe e gli altri sono dei buoni giocatori. Sì. Sullo stesso Pogba io ho qualche dubbio per il momento, nel senso che uno che ha dei colpi straordinari, ma gioca proprio come un ragazzino nel cortile di casa sua, per cui fa dei dribbling, si ficca in mezzo a tre avversari ed esce fuori con la palla e ti chiedi come ha fatto, ma spesso poi va a perdere la palla decisiva. Sì, cosa che al momento puoi anche consentirgli data l'anagrafe e il nome in onore del talento che possiede. Marco, io ti ringrazio. Posso dire solo una cosa? Certo. Ho sentito Paolo dire no al fatto del Balotelli potrà migliorare con... Balotelli a luglio fa 24 anni. Sì. Non è più un ragazzino. No, non è un giovane giocatore. Attenzione, perché noi qui pensiamo, al momento è ancora Cassano, sembra che sia un giovane giocatore. Hai ragione. Basta, cioè a 24 anni in Spagna, in Inghilterra, eccetera, è gente che è già al top del proprio, certo, modo di giocare. Quindi, in generale nel mondo e non solo nel mondo del calcio, perché qui siamo giovani fino a 40 anni. Quindi, certo. Marco, grazie, un abbraccio. Ciao. Pier, stai lì, borsa, poi cominciamo a parlare con gli ascoltatori. Secondo me la frase del giorno comunque è stata quella di Berlusconi, che peraltro dell'altro ieri, coi parlamentari marchigiani, chi di voi tifa Milan? Io. Beh, dispiace che Milan non vada così bene, beh, dispiace a voi, figuratevi a me che ci perdo 50 milioni l'anno. Tutti convocati. Il dribbling di Tevez, può puntare paletta, va Tevez in aria, Tevez fino in fondo, Tevez, ancora Carlos Tevez, si è inventato il gol del vantaggio, risponde così a Ciro Immobile, 1-0 per la Juve, ancora la pace. Quelli che si interessano di calcio e vogliono bene al calcio si chiedono come mai Tevez non gioca nell'Argentina con Messi e Higuaín, perché insomma, credo che sarebbe un attacco niente male, cosa dici tu? Sempre lo stesso, io penso che sto facendo il mio lavoro bene e dopo se l'allenatore della selezione non mi chiama, no, è un problema di lui, non mio. Tevez al limite, allarga adesso per Vidal, fino in fondo, Vidal, il cross mirante, Tevez! Di nuovo Carlos Tevez! 0 per la Juventus per la seconda volta, la pace. Altro che caso Cassano, non portare Tevez in nazionale in un'Argentina che non vince il mondiale da un millennio, a me sembra strano. Naturalizziamolo. Sì, naturalizziamolo. Però posso dirti una cosa, che qui dimmela. Sono d'accordo con te, insomma, Tevez. Ma perché, certo, perché non lo portano? Perché non lo, chi non lo vuole? Per un fatto di alternative, prima di tutto. Beh, diciamo, l'Argentina sta messa un po' meglio di noi. Questo certamente al signor Sabella, Sabella, bisogna concederglielo, perché è veramente all'imbarazzo della scelta. E poi perché Tevez comunque è un personaggio molto carismatico, quindi rischia di diventare, dicono insomma gli esperti di calcio argentino, rischia di diventare il classico giocatore scomodo poi da tenere in panchina. Questa... Sì, che Messi non lo regge. Avesse Messi la personalità di Tevez, magari l'Argentina avrebbe già un mondiale in più, secondo me. Avesse quella garra, quella cattiveria agonistica, che poi a me piace tantissimo anche come atteggiamento Tevez, perché è vero che ha tutte queste però caratteristiche. Messi, tu Messi lo sottovaluti, amico mio. No, non è che lo sottovaluto, Pier. Non in senso fisico, ma in senso di personalità. Non è certamente. Però. Cioè, la partita dell'altro giorno, Real Madrid-Barcellona, che cambia. Quella lì la partita, se l'avesse fatta con un carattere un po' diverso. Ma sono d'accordo, ma stiamo parlando di quello che è da tutti considerato, anche da me, probabilmente il più grande giocatore del mondo. Non sto dicendo che è uno come gli altri, sto parlando di eccellenza assoluta. E nell'eccellenza assoluta io dico, va bene Messi, ma avesse un carattere diverso. Lui gioca è un catalano che gioca nel Barcellona. Vorrei vederlo fuori, decontestualizzato, insomma, semplicemente questo. Non voglio fare detrattore del più forte giocatore del mondo. Giuseppe da Messina, grazie dell'attesa. Grazie a voi per la chiamata. Grazie davvero, dica. Ascolti, io volevo parlare sempre di queste stucchevoli polemiche nei confronti della Juve. Secondo me, ieri sera il fallo di Bonucci è il classico taglia fuori della palla a canestro, quindi secondo me poteva fischiarsi come non poteva fischiarsi. Il punto è un altro. Che io ringrazio che Fiorentina Juventus di Europa League sia data un arbitro straniero, questo caso Web, perché se fosse successo in Italia la doppia espulsione del giocatore della Fiorentina, nettissima, anche lì se l'arbitro fosse stato italiano sarebbero state delle polemiche sicuramente. Ma cosa ne pensate? Io penso che, come ho detto prima, ci sia una maggioranza e un'opposizione, perché questa è la grande guerra mediatica che va avanti da un millennio, insomma. I tifosi juventini la vedono così, quelli delle altre squadre dicono in dubbio pro Juventus. Juve è la più forte, il risultato di questo campionato non è in discussione, è giusto che lo vinca la Juve. In qualche partita ci sono stati gli episodi arbitrali che secondo me sono andati in quella direzione lì. Cosa sarebbe cambiato? È difficile dirlo, secondo me poco. Cioè, secondo me la Juve è la squadra più forte d'Italia, e comunque sia, voglio dire, non è che il Napoli, tanto per fare un esempio, non abbia avuto, adesso mi faccio amici in tutta Italia, adesso sì, parlo certo, anche alla Roma, non è che il Napoli non abbia, cioè non è che non si sia parlato dell'episodio di Higuain in Torino-Napoli, cioè decidiamo che o ne parliamo o non ne parliamo. Siccome in Italia se ne parla, e su questo se volete possiamo dall'anno prossimo mettere un punto, però dobbiamo farlo tutti insieme, perché altrimenti insomma no. Invece nella cultura italiana di questa roba qui si parla, e allora ci sono stati gli episodi, ci sono stati anche gli episodi a favore della Roma. Io mi ricordo tra le partite ho commentato un Roma-Samp 1-0 con un rigore possibile di Benatia che poteva costare il gol dell'1-1. Delle altre situazioni ci sono state, c'è stato un momento anche dopo le 10 vittorie consecutive dalle quali la Roma si è lamentata per qualche altro episodio. Cioè io la classifica non la so fare, la classifica fa panorama, no, ma pare, detto, no? La classifica sì, però... al netto gli errori arbitrali non la so fare, non mi interessa, però insomma che non si possa discutere mi sembra assurdo, no? Cioè certo, mi sembra un chiudiamo i bar andiamo in biblioteca tutti zitti, no, si parla, no, delle cose è per giusto, me ieri ripeto quell'episodio lì, per me Bonucci fa fallo, però io ho un dubbio su Schelotto, perché Schelotto probabilmente ferma Marchisio un secondo prima, e quindi è chiaro che se l'arbitro avesse fischiato il fallo a Schelotto, a quel punto era punizione per la Juve e finiva lì, insomma. No, ma comunque ha ragione al saldo, cioè si tende a dire se mi avessero dato o se non avessero dato a loro, mentre di quelli che si incassano si fa così, si mettono in tasca e via. L'Inter di quest'anno, qualche episodio arbitrale, cioè all'Inter qualche punto manca. Diversi episodi arbitrali, diversi punti, questo l'abbiamo decidiamo, detto. Vediamo, allora, o proprio non si parla mai di arbitri, oppure, siccome non è che sempre le compensazioni, cioè non è che sempre tutto si compensa. Detto questo, c'è una realtà critica del campionato, una realtà un dato politico del campionato. Qual è la squadra più forte? È sicuramente la Juve, non ci sono dubbi, io non ho dubbi. Sì. Quindi la Juve stramerita di vincere, ma sì, il ma poi anche lì, ma magari invece di stare a più 11 poteva stare a più 6, a più, sì, ma dipende, poteva esserci più o più 7, non lo so. Allora, anche che poi bisogna calcolare quelle dietro, no? Quello che hanno avuto e quello che hanno però certo. Voglio dire, se in Spagna c'è Cristiano Ronaldo, del club più potente del calcio mondiale, che dice ma giocavamo contro Barcellona, abbiamo giocato 12 contro 11, vabbè, allora o ne parliamo come si conviene, come è normale, oppure come dici tu, andiamo in biblioteca tutti zitti, naso sui libri, come faremo domani alla Bocconi, peraltro. Esatto. Emanuele Milano, buongiorno. Sì, ciao. Ciao. Grazie di avermi richiamato. No, io sono juventino, predetto. Sì. Però sinceramente non sapevo più che cosa toccare in giro, perché state gufando da matti. Cioè la Juventus che ormai date per scontato ha vinto il campionato. No, vabbè, adesso non mi dire che non l'ha vinto. Dai. Pugini, dai. No, ma no, dai, ma sei peggio di Conte. No. Non ha vinto il campionato. La Juventus può perdere questo scudetto. Le ultime tre partite della Juventus in campionato, permettetemi, ma non sono state straordinarie. E la Juve ha guadagnato punti. Non sono state straordinarie, hai ragione. La Juve da quattro partite non gioca bene e ha guadagnato punti sulle inseguitrici. Ed è a più 14. Io, guardate, che vi assicuro che se c'è un piacere di chi racconta il calcio, lo sport, ed è ovviamente neutrale, il piacere è quello di un campionato che si chiude all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Quindi mentre noi ti diciamo questa cosa del campionato è chiuso, io lo penso da mesi, mi sto dando una martellata, un'automartellata, perché mi farebbe piacere poter dire c'è vita fino alla fine, attenzione, chissà che succederà adesso in Sassuolo, Roma e Napoli Juve. Anzi, certe volte siamo ridicoli, punti, amici miei, di una squadra che ne ha persi 9 in 30 giornate. Ma è anche statistico, no. Mi fa piacere sentirlo, essendo juventino, però tuttavia non ho questa serenità, perché comunque non sta giocando granché bene. E poi volevo anche dirvi una cosa: prima avete parlato della differenza Juventus, grande squadra, ma non a livello europeo. Ma faccio una domanda: ma se ci fosse Barcellona nelle squadre, nelle 20 squadre del campionato italiano, come sarebbe messa adesso? Sarebbe prima in classifica, la Juve seconda, la Roma terza. Tu dici? Ma sì, ragazzi, secondo me il Barcellona è più forte della Juve. Sì. Sì. Io penso che la Juve abbia giocato male in Champions League e abbia perso un'occasione, perché secondo me come qualità tecnica la Juve è sicuramente almeno da ottavi di finale di Champions League e secondo me è fra le prime otto d'Europa. Anche secondo me fra la Juve e il Borussia Dortmund, io non mi sento sicuro che il Borussia Dortmund sia migliore della Juve, tanto per fare un esempio. Fra la Juve e il Manchester United, secondo me la Juve è più forte del Manchester United. Poi con le altre sei possiamo discutere. Però il Bayern è più forte, secondo me, perché è più forte di tutte. Bayern Real Barcellona certamente, e sulle altre non lo so, possiamo anche discuterne. Senti, fermiamoci, stai qui Pier, ancora 5 minuti? Dai, 5 minuti, dai. Dai, strade. Tutti convocati. Di SMS siamo al delirio. La Juve con gli arbitri italiani vince la Champions alla grande, scrive un ascoltatore. Questo è veramente delirio. Marco, Roma. Sì, buonasera, avete fatto bene, grazie per la convocazione. Grazie a fare attendere Pardo, perché io non so se lui sia un bevitore da quattro soldi o sia un intenditore di vini o un enologo, perché ha mai giocato a calcio il signor Pardo? No, particolarmente. No, le spiego, vorrei finire per poi darvi la possibilità di controreplica su due aspetti, perché il bevitore beve tutto, l'intenditore sa già qualcosa, quindi non si sa se Pardo parla da tifoso o da intenditore dei piani alti. Quindi... Ma di che cosa stiamo? Andiamo al sodo. Il sodo codifichi il signor Pardo cosa intende per più forte. Più forte cos'è? Ma chi? La Juve è più forte, cos'è? Sì. La Juve è più forte, per me è la squadra più forte d'Italia, forse questo sarà bene, per me la Juve è la squadra più forte d'Italia, è una frase da bevitore, non lo so, se fra l'altro andiamo a Vinita, Lilotto e non vedo l'ora, certo. Perché mi piace molto. No, ma qual è la squadra più forte d'Italia, voglio capire? È una squadra, se non parlo da tifoso, io sono un tifoso romanista, non parlo da tifoso ci sono le cose butad che uno può dire. da intenditore di calcio, e dico che da tifoso romanista, se la Lazio fa una grande partita, dico che la Lazio ha giocato e ha fatto una grande partita. La squadra forte è quella che io conosco, tifosi juventini, milanisti, laziali, toscani, che per vedere una bella partita, cioè una squadra che può giocare a volte, non sempre, vede la Roma, perché questa è un'altra storia, però questo è un altro discorso, è un altro, no, non è un altro discorso. Come no? Più forte, no, più forte non vuol dire più divertente, più forte non vuol dire più organizzata, più forte vuol dire che ha dei valori tecnici superiori, perché uno come Tevez la Roma non ce l'ha. Mi dispiace dirtelo, questo è quello che penso io. Io ho parlato benissimo della Roma mille volte, ma non perché io non, questa cosa poi è bellissima, perché ognuno ti dice sei tifoso di una squadra diversa, mi fa morire da ridere. La Roma sta facendo un campionato eccezionale, eccezionale, e sta giocando, sta meritando nettamente il premio della critica, nel senso che sta facendo delle cose che non si potevano possiamo neanche possiamo dire che ci divertiamo di più a guardare la Roma e la Juventus. Io almeno mi diverto molto di più, ma questo che vuol dire? Non vuol secondo dire me la Roma sono, più forte. Sono le due squadre che giocano meglio a pallone in Italia. La Juve è più forte, per me la Juve è più forte, perché è più forte nei singoli, perché ha una panchina più profonda, perché tanto per capirci, l'altro giorno ha giocato bene Toloi, ma Benatia e Castan, che stanno facendo una stagione meravigliosa, alle spalle c'hanno o Romagnoli o Toloi. La Juve c'ha tre giocatori che giocano titolari regolarmente, a Caceres e Ogbonna. Allora, Toloi ha fatto una buona partita, è arrivato, però era l'esordio in Serie A l'altro giorno, tanto per fare un esempio, no? Comunque la categoria della forza di una squadra non è esattamente la categoria estetica di come gioca a pallone. Per me sono due cose diverse. È non so se anche questo diverse. Rientra nella mia cultura da enologo, però penso che sia così. Ma è chiaro che sono diverse, altrimenti dovremmo dire la Roma è più forte della Juventus perché gioca meglio, a 14 punti di distacco, semplicemente perché i poteri forti, gli arbitri, Obama che è a Roma, il Papa e magari qualcuno più in alto vogliono così. Allora dovremmo dire questo. Tra l'altro ho anche detto che ci sono stati degli episodi arbitrali che potevano rendere più vicina la Roma alla Juve. Sì, ma, capito, ma 14 penso, punti ma sono la sostanza secondo me è che punti, la Juve è più forte della Roma. Che ti devo dire? Per me è più forte della Roma. Poi detto questo, ci divertiamo di più magari a guardare le partite della Roma, ma anche quelle del Napoli certe volte, perché o quelle della Fiorentina quando è stata al completo, certe partite della Fiorentina. La Juventus, come dici tu, ha qualcosa più delle altre, ma non, che non sono comunque, gli arbitri. Volevo sentire Marco, non volevo. Prego. Marco, non so dov'è. Stiamo giocando. Volevo un'ultima cosa, è possibile? Sì. Certo, appunto. Spettacolarizzare sempre le mega parate di questi portieri italiani che abbiamo, no? Però voglio dire, Mirante, cosa ha combinato l'altra sera? Come secondo me Handanovic su un cross così alto ha dormito. Reina, che è la metà di Handanovic e di Mirante, esce in percentuale sulle palle al limite della retta piccola molto, ma molto di più di questi due messi insieme. Cioè Handanovic, secondo me, ha commesso un errore. Mirante ieri ne ha commessi due, perché a volte, non dico di Handanovic, ma portieri come De Santis, che è della Roma, o Mirante, io capisco che vuoi spettacolarizzare una super parata allo Juventus Stadium respingendo un tiro di Vidal che non ha nessuna pretesa, non è né un cross né un tiro, ma non si respinge in quel modo. E no, il tiro primo Tevez è spettacolarizzata, scusate. Ma è una respinta che non è in piedi, non era angolata, la respinge frontalmente. Ma sono d'accordo, ma chi è che l'ha spettacolarizzata? Io no, i commentatori, no, non dice, o meglio, spettacolarizzare in alcuni casi alcune parate che sono il proprio dovere di un portiere. Certo, quando no, invece no, poi Mirante, ci sono. Mirante ieri a me non è piaciuto, lo dico proprio, non mi è piaciuto, per me è un buon portiere, ma ieri, secondo me, sul secondo gol della Juve respinge male, sul primo gol poteva fare qualcosa di più. Poi ci sono portieri che tendono a enfatizzare certi interventi. Ad esempio Perin, che è un ottimo portiere, è uno che fa sembrare complicata anche magari una parata semplice. Queste sono caratteristiche dei portieri, dei giocatori, no? Poi sono d'accordo sul fatto che Reina sia più bravo di altri in alcuni frangenti, in alcune caratteristiche. Manuel, provincia di Modena, e poi salutiamo Pardo e andiamo avanti noi. Dica, Manuel. Pronto? Dica. Volevo una base religiosa sotto, perché volevo pregare per il Santo Sinisa. Santo Sinisa. Santo Sinisa, ora pro nobis. Tifoso sampdoriano di Maranello, un po' anomalo, volevo sapere da Pardo che possibilità ci sono per l'anno prossimo che Sinisa rimanesse alla Sampdoria. Vabbè, allora, innanzitutto ti dico che glielo chiediamo lunedì sera a Tikitaka, faccio già promozione proprio vergognosa, sì, perché lunedì ci sarà Sinisa Mihajlovic, ma io penso che rimarrà. Devo dire che ha fatto un capolavoro. Non so dirti onestamente, con tutto l'affetto per Delio Rossi e insomma il rispetto per una carriera eccezionale, però quanto di questa impresa sia dovuta al fatto che il suo predecessore abbia fallito, perché insomma mi sembra che si fosse veramente rotto qualcosa fra Delio Rossi e i giocatori. Sinisa ha ribaltato tutto, ha ribaltato completamente dal punto di vista psicologico la squadra, che era una squadra che aveva bisogno di certezze, che ha dei valori tecnici interessanti ma non straordinari, e che soprattutto secondo me all'inizio dell'anno aveva tanti giovani un po' in difficoltà dal punto di vista psicologico. E poi fu il problema della Samp nell'anno della disgraziata retrocessione con le partenze di Castano e Pazzini. Si passò da una squadra che era al quarto posto in classifica, appresso a quei due leader e volendo almeno appunto essere lo spogliatoio a Palombo, a una squadra un po' senza anima, e adesso la situazione poteva essere questa all'inizio della stagione, grande fragilità. Secondo me rimane a Genova. Rimane a Genova anche perché insomma non credo che possa muoversi di lì, no? Il rischio può essere che qualcuno si faccia ingolosire, no, dalla stagione. Ma ricordo quanto dicevamo all'inizio della stagione, cioè in particolare lo dicevi tu, la Samp è una squadra scarsamente competitiva dal punto di vista dell'organico. È arrivato Mihajlovic, non sono arrivati sti gran giocatori, leggi la classifica e il prodotto credo sia il merito di Sinisa Mihajlovic. Ci vediamo domani alla Bocconi, Pier. Senz'altro, ciao. Portiamo il Labrusco con l'amico modenese. Certo, ciao Pardo. Tutti convocati. Marco Nosotti da Sky, ciao. Ciao Carlo, ciao a te, un saluto a tutti, ciao. Senti, ma Pardo ti imita benissimo, tu sai fare l'imitazione di Pardo? No, perché non so quale sia la sua vera voce. Non lo sa nessuno. Lui dovrebbe parlare un falsetto, e io credo che sia, a dispetto della sua grande mole, una piccola voce, invece no, non lo so fare. No, lui è Nosotti spiccicato, è quasi più vero di te. È quasi più vero di me. Ho trovato mia moglie in giro a fare compere perché qualcuno con la mia voce gli aveva dato il permesso, mi ha rovinato. Anzi, ma sei tu? Sei davvero tu? Sono io. Ascoltami, ma no. Volevo chiederti due cose sul Milan, perché adesso sembra paradiso all'improvviso, no? Sì. Per il Milan e per Balotelli, la verità è che sono due entità intermittenti. È vero. Guardate, i risultati, Carlo, lo sai, aggiustano tante cose, sì, e cambiano di colore a situazioni che prima erano nere, adesso diventano di colpo bianche, di fatto sono grigie e grigie restano, perché tale è la situazione del Milan, d'accordo. Intanto dobbiamo dire una cosa, c'è un ravvedimento societario, Galliani è ritornato al suo posto, anche perché Berlusconi era preoccupato che la creatura, la sua creatura, Clarence Zedov, si fosse ribellato al creatore, o gli hanno detto, ha mandato l'Arcangelo Gabriele Adriano Galliani a dire, caro mio, tu fai l'allenatore, io faccio il manager, e già lì c'è sicurezza anche per la cascata, no? Anche sulla squadra, eccetera. Un po' di chiarezza. E poi ti dico, risultati, qualche ravvedimento tecnico-tattico, perché abbiamo visto un Milan più accorto, giocatori utilizzati un pochino meglio, e anche disposti, quindi quando riescono a capire qual è il progetto tattico con più chiarezza, riescono anche a interpretarlo in maniera differente. Sì, abbiamo visto un'evoluzione in questo senso. Come no? Ma poi non è un caso che i centrocampisti, Muntari su tutti, fosse stato il migliore in campo, no? Quindi quando con tutto rispetto per Essien, anche l'altro allenatore diceva, guarda che Muntari quando conta c'è, ha qualità, non è solo un muscolare, soprattutto fase interdizione, ma poi si butta dentro perché va al tiro, perché ce l'ha il tiro, e ieri si è visto. Certo, ma poi comunque rimane, hai ragione tu, la frase del giorno, quella del presidente l'altro giorno ai parlamentari marchigiani, uno dice dispiace che una squadra così importante si trovi in questa situazione, risposta dispiace te, figurati a me che ci rimetto 50 milioni di euro l'anno. Com'è il futuro? Il futuro è proprio questo, se cosa voglio metterci 50 milioni di euro non sempre ce l'avrà lui, sì, e tantomeno ce l'avrà Marina, io credo, che tiene un po' i cordoni della borsa, o meglio, aiuta a tenerli stretti. Ecco. E nello stesso tempo io credo che senza l'Europa bisogna necessariamente andare verso una diversificazione dei ricavi, bisogna puntare su altre situazioni come può essere però questo più a lungo termine come lo stadio, vedremo ridurre la rosa perché forse l'Europa League non credo che sia la portata, se non altro perché ci sono tanti pretendenti e vedremo anche player, i grandi top player li vedremo soltanto col binocolo, meglio in 2-3 anni tu devi lavorare sui giovani, su quelli che hai e cercare di aggiungere un pezzettino di qualità ogni tanto, ma non puoi spendere tanto, e quindi il futuro lo vedo così, basso profilo e ristrutturazione in tutti i sensi. Sì. Marco, un'ultima cosa, ma io credo che insomma vedo Balotelli cui cresce il naso dicendo ho salvato Seedorf, non ce n'era bisogno, nel nostro gruppo non ci sono divisioni, questo non è vero e lo sappiamo, può essere che sia stato usato un po' di scotch appunto da Galliani e Seedorf per aggiustare qualche crepa provvisoriamente? Sì, io penso di sì, penso che la divisione c'era, era un Milan a cui che aveva dei problemi, a cui a qualcuno aveva aggiunto altri problemi, un capo deve invece risolvere i conflitti più che crearli. Era un Milan che scappava un po' via, aveva lo spogliatoio un po' diviso e tale resta. Ora sì, c'è un po' di scotch, è arrivato Galliani, è ritornato al centro del villaggio, la chiesa Galliani, come usando parafrasando Garcia, e quello l'ha rimesso a posto. Poi ovvio, adesso nel momento che le cose ti vanno bene, cioè il risultato, ti senti anche un po' più forte e nell'interpretazione della realtà propendi per quello che è più positivo, è quello che ti serve, e qui per cui dicono no, non ci sono assolutamente divisioni, per carità, ci vogliamo bene tutti, che credono sia risolta in questi 4 giorni fra Roma e Firenze, sai, però ma no, dai, più, non scherziamo, qualche certezza in più e una serenità in più si vede. Sì, guarda, per farti un piacere e prima di salutarti ti chiedo un pronostico sulla tua squadra di Milano invece questa sera con l'Udinese. L'Inter, guarda, attacca al quarto posto la Fiorentina e secondo me se arriva a quarta Mazzarri ha fatto il suo. Secondo me sì, apprezzo Mazzarri, apprezzo anche quando chiaramente dice dammi degli uomini per arrivare a un certo punto, se io ci arrivo ho fatto il mio dovere, se arrivo un po' di più sono Mazzarri, come dice nel suo libro. Sì. Adesso non mettiamo le percentuali, lui sta facendo bene secondo me, avesse un centravanti forte che ti assicura comunque tiri in porta e gol, potrebbe fare qualcosa di più, ma secondo me sta facendo, insomma, arriva quarto e secondo me quello è un posto in cui questa Inter, come è cresciuta e come si è assestata, può arrivare, può dirsi, ha fatto il suo, ha fatto la sua debole, più debole della Roma, ovviamente delle tre che stanno sopra, secondo me a me piace più la Fiorentina, ma comunque se arriva quarta con quella qualità ha fatto il suo. Ha avuto troppe assenze importanti, no, e ha stravolto il suo gioco, e finché aveva uno come Pipito Rossi o Gomez, la cosa, questo stravolgimento, adesso c'hanno Matri, poveretto, poi adesso scomparso, adesso non è falsato, il 4-3 non è incompiuto, il 3-5-2 non lo puoi fare veramente, e niente, adesso vediamo, poi adesso è stanca questa Fiorentina, certo. è quel che resta della Fiorentina, caro Marco, è quel che resta perché i giocatori, io non sono ancora convinto che tu sia Marco Nosotti, secondo me sei Pardo, ma comunque grazie Marco, ciao Carlo, buona giornata, un saluto a tutti, ciao Marco Nosotti da Sky. Chiamiamo in linea 3 sarebbe? No, non c'è linea 3, allora ne approfitto per darvi un paio, faccio sentire Prandelli che apre definitivamente Cassare Totti, sì, lo faccio sentire subito, ma prima vi do queste due chicche da gaggio inglese perché sono divertenti. Allora, ci sono i tifosi dello United che sono stufi marci di David Moyes, che è passato da The Chosen One, cioè il prescelto, da Alex Ferguson, il depositario dell'eredità, a The Wrong One, cioè quello sbagliato. E allora hanno fatto una colletta organizzata su internet, i tifosi dello United, una parte dei tifosi della tifoseria dello United, ebbene, sopra l'Old Trafford volerà un aereo con scritto Wrong One, Moyes Out, cioè lo sbagliato, Moyes vai via. Questo accadrà nella prossima partita dello United dall'Old Trafford. Poi c'è Olic, altra chicca da calcio inglese, che lo gioca in Germania, non indimenticabile attaccante anche della nazionale croata. Lo voleva lo Stoke City e lui ha fatto un tweet dicendo Ho parlato con Newx e gli ho detto: ma con tutti i lanci lunghi che fate mi viene solo il torcicollo, quindi lì non ci vengo. Vabbè. Leonardo, provincia di Trapani, buongiorno. Sì. Sì? Sì? Buongiorno. Io chiamavo in merito a queste discussioni sulle decisioni arbitrali che sono state prese, ovviamente. Nel senso che un po', secondo me, hanno una scarsissima incidenza e comunque riguardante la Juve ci si potrebbe appellare anche ad episodi come per esempio il fallo di mano di Schelotto, sulla punizione di Tevez. Sì, vabbè, comunque mi sembra ne abbiamo parlato moltissimo, forse un po' troppo. Prandelli, dicevamo? Sentiamo. Ti faccio la domanda che non volevi avere, Cassano e Totti. Ma sono due ragazzi, sono due grandissimi professionisti e stanno facendo benissimo, ma stanno facendo bene anche i giovani. Ieri sera ho visto dei giovani finalmente che hanno forse usato e questo ci fa ben sperare per il futuro. Tu hai parlato di porta aperta per loro, rimane aperta per Cassano e Totti? Assolutamente sì, non ho mai chiuso le porte a nessuno. È chiaro che poi faremo delle scelte, è chiaro che valuteremo anche la condizione fisica e poi vedremo, insomma. Vabbè. Secondo me dice abbastanza poco, ma comunque Prandelli che dice va bene, per il momento tutti in ballo, poi si ferma la musica e vediamo chi salta sulle seggiole. Vi do un altro paio di notizie, una è questa, riguarda il fattaccio dell'assalto al pullman della Juventus a Catania. Quattro ultras del Catania che avrebbero partecipato appunto domenica scorsa al tentativo di bloccare il pullman della Juve con la violenza sono stati identificati, denunciati dalla Digos e sottoposti a DASPO e disordine. Avrebbero partecipato anche tifosi organizzati del Napoli. Poi c'è Formula 1, c'è la vigilia del Gran Premio della Malesia. Raikkonen e Alonso non hanno esattamente le stesse idee sull'approccio della Ferrari, perché Alonso dice che la Ferrari può ruotare per il campionato, Raikkonen qualcosa di diverso. Per la Ferrari un inizio non ideale, credo che siamo più o meno dove abbiamo finito l'anno scorso, non sappiamo come andranno le cose a Sepang, è un circuito diverso, farà molto caldo eccetera eccetera. Beh, insomma, uno che un po' democristiano, cioè Alonso, dice va tutto bene, l'altro Raikkonen che invece democristiano non è mai stato. Luca Modena, buongiorno. Luca, pronto? Pronto? Siamo? Eccoci. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo dire altre cose veloci. Prima, la prima in merito a quello che diceva prima Pardo e il suo ospite, che gli allenatori si lamentano per i torti subiti e non per i favori. In questo senso penso che Ventura del Torino, oltre che essere un grande allenatore, spesso si lamenta come contro la Roma dei suoi che sono dei polli che si fanno raggiungere a tempo scaduto, piuttosto magari che lamentarsi che magari Destro ci aveva un piede in fuorigioco. Sì. La seconda cosa, Balotelli. Balotelli è... Balotelli è. Molto bene. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltretti in regia, chiudiamo con questo Balotelli è, che finirà negli annali con la linea che cade. Ci sentiamo domani, saremo in diretta dalla Bocconi, Fiera del Risparmio, eccetera. Siamo lì dalle 14 in poi con tutti i convocati. Ciao!